Una buona sera da Radio Città del Capo, nella fattispecie da Max Macchia e 451 frammenti sonori. Un saluto chiaramente al compagno di viaggi e d'avventure e anche di disavventure, Eliseo Scarpa. Probabilmente torneremo insomma la settimana prossima per deliziarvi tutte e due con qualcosa magari, chissà, d'estivo, vedremo, visto che in effetti l'estate inizia oggi, probabilmente, sì, uno strano insomma vento chiamato Scipione, arriva Scipione, sì. Ecco, ci manca soltanto Scipione, vabbè, ma d'altronde, come dire, dovuto tempo di giugno per questa calda Bologna come al solito. E non siamo qua comunque per parlarvi di caldo, fare previsioni meteorologiche, semmai previsioni musicali, sonore. Max Macchi appunto vi porterà su così i fiumi di una desolazione infinita, no scherzo, però insomma non sarà di certo una trasmissione di quelle insomma tanto facile da digerire. Qualcuno potrebbe anche dire, magari ci ha ascoltato qualche mezza volta, dice vabbè, non è che tendenzialmente siete particolarmente insomma digeribili, ma tant'è che insomma questa sera tratteremo di musiche postume dopo il trauma degli anni zero, dopo il trauma 00, così cercando anche di fare un piccolo gioco concettuale su quello che insomma è stato insomma l'entrata dentro gli anni zero, ovvero quelle due famose torri che venivano giù creando insomma il pandemonio a livello mondiale, la prima bolla economica, e poi appunto sul finale degli anni 10, la crisi che ancora ci attanaglia chissà per quanto tempo. Ovvio che le musiche, per quanto insomma poi a livello industriale e commerciale si vogliano divise dalla realtà, sembra quasi appunto che sia una sorta di intrattenimento al di fuori, l'arte non c'entra con la realtà, o se c'entra c'entra per fare propaganda, per raccontarci insomma faccende che vanno insomma nel miglior dei modi, o che comunque anche quando sembrano andare male, comunque un drammone che alla fine insomma porta lì, emette un po' di commiserazione, un po' di lacrime, ma poi per tornare insomma come dire anche rassicurati alla vita quotidiana. In realtà insomma è questo poi l'underground, la musica sperimentale che cerchiamo di far passare da un po' di anni a queste parti qua, 451 frammenti sonori. In realtà appunto succedono cose ben diverse nelle musiche appunto sperimentali, nelle musiche anche di strada, nelle musiche che si vogliono insomma aperte verso il futuro, con la tensione insomma che per tanti aspetti adesso manca. E in effetti proprio con musiche postume andiamo quasi a intravedere o a intrasentire quello che potrebbe essere un futuro, ma dentro ancora un senso postumo, un senso appunto di post-morbo, di crisi ancora insomma forte, nel pieno insomma della malattia sistemica che sta attanagliando insomma tutto il mondo. E le musiche vivono, musiche appunto sperimentali, musiche reali poi, non soltanto di manierate e quindi che sperimentano sulla forma, ma anche proprio su una sostanza esistenziale decisamente cruda, risentono chiaramente, sentono questi venti gelidi per alcuni aspetti, ma anche molto caldi per altri, caldi insomma anche di volendo speranze forse disperate, sempre insomma rimanendo nel gioco di parole, ma insomma di sicuro insomma cambi a livello estetico, artistico ce ne sono, e come, e probabilmente potrebbero anche anticipare altri tipi di cambi. D'altronde poi l'arte va di pari passo con la vita, quando è arte vera insomma, non per tromboneggiare, ma perché insomma di fatto è così per poi le musiche che rimangono, se ha ancora senso nell'era del postumo parlare di qualcosa che rimane, ne ha, probabilmente sì, si può dire, e quindi insomma musiche che stando dentro la crisi intravedono forse anche una fuoriuscita, o forse insomma attanagliate dentro questa comunque la portano a una sorta di visione anche distopica, che non per forza insomma deve portare a una catastrofe, anche questa fin troppo forse telefonata. GK Flash, progetto di Judd Brodkin, storico personaggio che di musiche catastrofiche, di musiche postume è sempre stato protagonista, da God Flash a varie progettualità tra dub e isolazionismo, ricordando ad esempio gli Ice, bellissimo progetto degli anni 90, se ne esce con questa nuova progettualità, appunto JK Flash, con ritmiche dubstep, tra l'altro anche sperimentate nel suo progetto The Bug negli anni zero, e questo rumore di fondo che va a incocciare tanto certe forme di rock pesante, quasi grand, memoria appunto di God Flash, e tanto invece rumorismo elettronico, memoria di certa industrial, quindi di musiche che evidentemente si cibano di momenti di crisi, momenti critici, e appunto vanno un po' a segnare l'odierno, questo morbo continuo. JK Flash fa un po', come dire, da radiografia del momento storico. Posthuman di fatto è il disco, e potrebbe anche essere un sottotitolo di questa trasmissione, appunto musiche postume dopo il trauma 00. Brodkin quindi con JK Flash. Randy Stott, We Stay Together, probabilmente l'ipnosi della catastrofe. Veramente un disco eccezionale, questo è uscito qualche mese fa per questo artista che non da moltissimo, da 5-6 anni, stampa con il suo dubstep, decisamente desolato e per certi versi anche desolante, non in termini chiaramente artistici, anzi tutt'altro, però insomma appunto la desolazione è una chiave di lettura sicuramente di un lavoro come questo, We Stay Together, che vive di queste appunto rarefazioni rumoriste che vanno a impattarsi con una ritmica post-techno, da dubstep, e così insomma suburbana da portarci insomma veramente vicino a una periferia lontana da tutto e da tutti, forse una visione escapica o distopica, poi dipende dai punti di vista, da insomma finale, terminale, chiaramente poi il contesto lo trovate voi, cioè, voglio dire, non è che per forza debba finire male, comunque la terminalità di un qualcosa che si sente dentro la musica di Andy Stott, perlomeno insomma in termini di processo musicale decisamente saturo nel suo farsi sub basso, nel senso che appunto un utilizzo delle frequenze bassissime che comporterebbe anche impianti dotati insomma di tecnologie tali da reggere, se non le avete o non le abbiamo, perché ancora mi ci metto in mezzo anch'io, di sicuro comunque si intercetta questa attitudine decisamente disastrosa, catastrofista di Andy Stott, che ripeto, probabilmente lo ripeterò anche durante il corso di 451 questa sera con le musiche postume, non significa per forza qualcosa che vada a finire male per tutti, magari la catastrofe di alcuni e la fortuna di altri. Da Andy Stott, con questo insomma dilemma con cui vi lascio per tutto il corso di questa serie di 451, da Stott andiamo a trovare Ectoplasm Girl, forme postumane anch'esse, già il nome insomma ectoplasmatico ci porta a qualcosa di postumo evidentemente, e ragazze che escono da pochissimo, da pochi mesi, con il loro primo lavoro che va a intercettare strane frequenze quasi folktroniche in alcuni momenti, ma veramente quasi non voluti, e momenti sì che vanno a ripercorrere una sorta di blues dell'assurdità, della macchina però che va a funzionare male, del malfunzionamento quindi di tutto il sistema creato da Ectoplasm Girl, quindi con queste strane frequenze che veramente portano a una sorta di appunto decostruzionismo, canzone, blues e ritmiche che ricordano o che vanno, per meglio dire, a cercare appunto una sorta di anche qua techno post dubstep, ritmiche che si vanno a frazionare in mille rivoli, quasi proprio a cercare appunto un senso definitivo, terminale, che poi appunto viene comunque riaperto, riacceso da questo canoro allucinato che rimanda veramente a mondi decisamente alieni, decisamente insomma anch'essi lontani dall'umanità o da quella che finora abbiamo intesa come tale. Ectoplasm Girl. Thank you. le inquietanti presenze ectoplasmatiche, appunto a mo' di postumanità delle Ectoplasm Girl, una sorta di cocorosi andata veramente male, probabilmente è più ricordante la Black Tomb con i suoi brevi progetti degli anni zero, con un'elettronica ancora glitch che comunque già intravedeva una decostruzione che viene attuata in maniera anche perfida da appunto questa Ectoplasm Girl, TXN, questo disco che veramente dall'inizio alla fine ha questa inquietudine di fondo, anche questa follia che potrebbe anche risultare godibile se appunto spostiamo l'asse d'ascolto e chiaramente anche l'attitudine rispetto alle musiche, rispetto anche a un senso quasi se vogliamo anche quasi comico di sbeffeggiarsi della catastrofe, in questo senso appunto i postumi del morbo così vanno quasi in maniera sardonica così a ricordare forse anche un momento paradossale che probabilmente sarà anche chiave di chiusura per quanto riguarda 451 frammenti sonori nella seconda parte, ma senza anticipare insomma assurdità che attraverseremo poi in varie maniere non vi dico niente, rimaniamo appunto su comunque questo disco TXN anch'esso uscito pochi mesi fa come Andy Stott, invece J.K. Flash che apriva la trasmissione è uscito proprio da pochi giorni e, anche in questo senso insomma lavori piuttosto recenti proprio per dare questo senso di attualità, per percorrere questa attitudine che nel disastro si erge così in maniera o completamente sfatta come Ectoplasm Girl oppure si erge in maniera così piuttosto inquietante, ma inquietante si potrebbe anche pensare insomma a cambiamenti radicali come quello di J.K. Flash e anche di Andy Stott, perché no, seppur magari in una chiave più distopica. Yellow Swans invece oramai insomma si potrebbero considerare veterani, se forse il termine non esiste più, visto che insomma anche dopo 20 anni di musica si è ancora magari nell'underground più profondo, in effetti Yellow Swans, ma beatamente anche fottendosene della faccenda, continua a rimanere in questo underground meraviglioso a livello sonoro, quel noise americano che appunto ha tracciato anche buona parte di 451 negli ultimi periodi. Sicuramente insomma l'anima più rumorista di 451, se lasciatemelo passare, forse quella di Max Macchia, quella invece più ambientale, più così eterea, quella di Eliseo Scarpa. Sicuramente insomma quello che colpisce il sottoscritto di tutto un insieme di formazioni, di progettualità come quella americana degli anni zero, e sicuramente questo voler pestar duro ma non poi neanche dando esteticamente quella rigidità, quella rigidezza per meglio dire che si dava ad esempio in molte industrial music, ma anche quel senso così dell'assurdo, così parafollia che c'è dentro molti lavori da Wolf Eyes in poi. Anticipo anche che cosa ci sarà nella seconda parte, una progettualità piuttosto assurda, ecco qua ci vuole. Yellow Swans tra l'altro hanno anche collaborato proprio con oramai famosi di culto Wolf Eyes, con uno split ma non solo, hanno collaborato anche con Skaters ad esempio, band che viene dall'altra sponda americana, da quel di San Francisco, della Los Angeles, anzi dalla California più astratizzata dal rumore. E Yellow Swans costruiscono muri sonori che vanno anche comunque così a ricercare sorte di fuoriuscite appunto post traumatiche dall'urto del grande rumore che riescono anche a creare, e anche appunto queste fuoriuscite ci portano a una sorta di vagheggiamento estremo terminale. Yellow Swans, per finire con Gong Place, la prima parte di 451, appunto dedicato alle musiche postume dopo il trauma degli anni 00. Seconda parte, che appunto inizierà tra una ventina di minuti. Intanto godetevi questo viaggio nel rumore e nell'assurdo armonismo, se vogliamo chiamarlo così, insomma, in maniera anche abbastanza ironica, di Yellow Swans.